Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. I negri, 25 marzo. Sulla mia scrivania ci sono dei fiori, regalo della mia padrona di casa, perché oggi è il mio compleanno. Ma ho bisogno di posto. Allontano i fiori e anche la lettera dei miei vecchi. Mia madre scrive: caro figliolo, per il tuo 34esimo anno ti auguro ogni bene, che Dio onnipotente ti conceda salute, felicità e contentezza. E mio padre: per il tuo 34esimo anno ti auguro, caro figliolo, ogni bene, che Dio onnipotente ti conceda felicità, contentezza e salute. Felicità, penso, sì, sarebbe la benvenuta. E grazie a Dio la salute non manca, tocchiamo ferro, ma contento? No, contento non lo sono. È vero che nessuno lo è, in definitiva. Mi siedo alla scrivania, stappo una bottiglia di inchiostro rosso, mi macchio le dita, cosa che mi mette di cattivo umore. Si dovrebbe inventare un inchiostro che non macchi. No, certo, contento non sono. Ah, non dire sciocchezze, dico a me stesso. Godi di una posizione stabile che ti dà diritto a una pensione, e non è poco, in tempi in cui nessuno sa se domani la terra girerà ancora. Quanti si leccherebbero le dita al tuo posto? La percentuale dei candidati ammessi all'insegnamento è talmente irrisoria. Ringrazia Iddio di far parte del corpo insegnante di un liceo, cosa che ti permetterà di invecchiare senza preoccupazioni materiali. Puoi anche vivere fino a 100 anni. Chissà, forse diventerai l'uomo più vecchio del paese. E al tuo compleanno la tua fotografia uscirà su un giornale illustrato con la leggenda «Sempre Arzillo». E tutto questo col beneficio della pensione. Non bestemmiare la provvidenza, rifletti. Non bestemmio e mi metto al lavoro. 26 quaderni dalla copertina blu si ammucchiano sulla mia scrivania. 26 ragazzi di 14 anni circa hanno fatto un componimento di geografia. Sì, insegno geografia e storia. Fuori c'è ancora il sole. Come si deve stare bene nei parchi. Ma il dovere innanzitutto. Correggo i quaderni e noto sul mio taccuino i buoni e i cattivi. L'argomento, imposto dal consiglio, è questo. Perché abbiamo bisogno di colonie? Sì, perché? Vediamo un po'. Il nome del primo scolaro incomincia per B. Si chiama Bauer, Francesco Bauer. In questa classe non ci sono nomi che cominciano per A. In compenso abbiamo 5 B, una rarità, tanti B, su 26 scolari in tutto. È vero che due sono gemelli. Scorro macchinalmente la lista alfabetica dei nomi e constato che i B fanno concorrenza agli S. Sì, ci sono 4 S, 3 M, 2 E, 2 G, 2 L, 2 R, un F, un H, un N, un T, un W, uno Z, mentre non ci sono né A, né C, né D, né I, né O, né P, né Q, né U, né V, né X, né Y. Ebbene, Francesco Bauer, perché abbiamo bisogno di colonie? Abbiamo bisogno di colonie perché abbiamo bisogno di materie prime in grande quantità. Senza materie prime non potremmo far funzionare come dovrebbe la nostra industria, con la spiacevole conseguenza che il nostro lavoratore ridiventerebbe disoccupato. Benissimo, caro Bauer. Ma non si tratta soltanto dell'operaio. E di che cosa allora, Bauer? Si tratta di tutta la nazione, poiché in definitiva anche l'operaio fa parte della nazione. Già, in definitiva questa è davvero una scoperta straordinaria, penso. E mi colpisce una volta di più la constatazione che spesso ai nostri giorni verità vecchie come il mondo passano per parole d'ordine nuove e fiammanti. O sarà sempre stato così? Non ne so nulla. So soltanto che devo leggere e rileggere 26 compiti che, da premesse storte, traggono conclusioni false. Come sarebbe bello se storto e falso si neutralizzassero a vicenda. Ma non lo fanno. Passeggiano insieme a braccetto e cantano frasi vuote. Mi guarderò bene, naturalmente, come funzionario dello Stato, dal muovere la più piccola obiezione a questo grazioso canto. Mi dà fastidio, certo. Ma che cosa si può fare quando si è soli contro tutti? Nient'altro che avvelenarsi il sangue. E io non voglio più avvelenarmi il sangue. Spicciati a correggere che devi ancora andare al cinema. Ma che cosa scrive quest'altro? Tutti i negri sono mascalzoni, vili e pigri. Una cosa davvero troppo stupida questa. Cancelliamo. E scrivo in margine con inchiostro rosso: assurda generalizzazione. Mi fermo. A proposito, non l'ho udita poco fa questa frase sui negri? Dove? Ah, ecco, in trattoria, urlata dall'altoparlante. Sì, e mi aveva quasi tolto l'appetito. Lascio quindi la frase intatta, poiché nessun professore ha il diritto di cancellare in un quaderno ciò che si dice per radio. E mentre seguito a leggere, odo continuamente la radio. Sussurra, stride, urla, geme, minaccia, e i giornali riportano le sue parole e i ragazzi le copiano. Intanto sono arrivato alla lettera Z. Dove è andato a finire W? Ho perduto il suo quaderno? No, ricordo, W ieri era assente. Si è buscato una polmonite allo stadio, è vero, suo padre mi ha avvertito con un biglietto. Povero W. Ma perché andare allo stadio quando fa freddo e piove a torrenti? È una domanda che potresti fare a te stesso, penso, poiché domenica c'eri anche tu allo stadio e hai aspettato pazientemente il fischio finale benché la partita non fosse molto interessante. Anzi, era noiosa. Perché sei rimasto, dunque? Perché sono rimasti con te 30.000 spettatori? Perché? Quando l'ala destra doppia la mezza sinistra, quando il centrattacco lancia il pallone verso la porta e il portiere si slancia, quando la mezzala sinistra supera la difesa e passa all'ala, quando il terzino salva in corner, quando uno carica o ha un gesto cavalleresco, quando l'arbitro è buono o cattivo, parziale o imparziale, allora per lo spettatore non esiste al mondo che il football, sia che piova o che risplenda il sole o che nevichi. Allora egli dimentica tutto. Tutto? Che cosa? Tutto. Non posso soffocare un sorriso. I negri, probabilmente. Piove. L'indomani mattina, mentre mi dirigevo verso la sala dei professori, udì al secondo piano un baccano d'inferno. Accorsi e vidi quattro ragazzi, E, G, H e T, che ne picchiavano un altro, il giovane F. «Che vi salta in mente?» gridai. «Se credete di potervi picchiare come dei ragazzini delle elementari, che almeno sia uno contro uno, ma così, quattro contro uno, è una vigliaccheria!» Mi guardano senza capirmi. Anche F, che gli altri quattro avevano assalito. Il suo colletto era stracciato. «Che cosa vi ha fatto?» chiesi. Ma i quattro tacevano, e la loro vittima anche. Tuttavia, a pezzettini riuscii a sapere che F non aveva fatto loro niente. Al contrario, erano gli altri che gli avevano rubato un panino, non per mangiarlo, ma solo per lasciarne senza lui. E l'avevano buttato dalla finestra nel cortile. Mi affaccio, lo vedo sulla pietra grigia. Piove sempre e il panino luccica. Penso, forse i quattro non avevano pane ed erano furibondi che F ne avesse. Ma no, tutti avevano il loro. Anzi, G ne aveva due. Chiedo, perché avete fatto questo allora? Non lo sanno. Stanno imbarazzati davanti a me e sogghignano. Certo. L'uomo è cattivo, sta scritto pure nella Bibbia. Quando smise di piovere e le acque del diluvio si ritirarono, Dio disse: «Non punirò mai più la terra per colpa dell'uomo, poiché la natura del cuore umano è malvagia dall'infanzia. Dio ha mantenuto la promessa? Non lo so. E non voglio neanche sapere perché i ragazzi hanno buttato il panino nel cortile. Domando loro soltanto se non hanno mai sentito dire che dalle epoche più remote, da migliaia e migliaia di anni, dall'origine della civiltà, una legge non scritta si è imposta con un rigore sempre più imperioso, una bella legge umana. Se vi battete, che almeno sia uno contro uno. Mi volgo di nuovo ai quattro e chiedo: non vi vergognate? Non si vergognano. Parlo loro una lingua sconosciuta. Mi guardano con occhi stupefatti. Soltanto la vittima sorride. Sorride di me. Chiudete la finestra, dico, altrimenti pioverà dentro. I ragazzi chiudono la finestra. Che cosa diventerà questo diavolo di generazione? Dura o solamente brutale? Non aggiungo parola e mi dirigo verso la sala dei professori. Sul pianerottolo mi fermo e tendo l'orecchio. Che si picchino ancora? No, tutto calmo. Sono stupefatti. I ricchi plebei. Dalle 10 alle 11 avevo geografia. Dovevo restituire le composizioni sul tema delle colonie, corrette ieri. Come ho detto, le istruzioni ricevute non mi permettono di discutere i compiti dei miei scolari. Mi limitai dunque, restituendo i quaderni, a fare delle osservazioni sullo stile, sull'ortografia e su altri particolari di pura forma. Raccomandai a uno dei B di non scrivere sui margini, a R di fare composizioni un po' più lunghe, a Z di scrivere colonie con una N e non con due, ma restituendo il quaderno a N, non potei trattenermi dal dirgli: scrivi che noi bianchi siamo, per cultura e civiltà, superiori ai negri, e probabilmente hai ragione, ma hai torto di scrivere che non ha importanza che i negri vivano o no. I negri sono uomini, come noi. Il ragazzo mi guardò fisso un momento e un'espressione sgradevole passò sul suo viso. O m'ero ingannato. Prese il quaderno col voto buono, si chinò compito e andò al suo posto. Dovevo presto convincermi che non mi ero ingannato. Non più tardi dell'indomani, il padre di N venne a trovarmi durante l'ora di colloquio che devo tenere una volta alla settimana per rimanere in contatto coi genitori. Essi vengono a informarsi dei progressi dei loro figli e fanno ogni genere di domande, la maggior parte stupide, sui problemi dell'educazione. Sono dei buoni borghesi, funzionari, ufficiali, commercianti, operai nessuno. Con certi genitori ho la sensazione che sul contenuto dei temi dei loro rampolli la pensino pressappoco come me, ma ci limitiamo a sorriderci, a guardarci e a parlare del tempo che fa. La maggior parte sono più vecchi di me. Uno, anzi, è vecchissimo. Il più giovane ha appena compiuto 28 anni. A 17 ha sedotto la figlia di un ricco industriale. È un tipo elegante. Viene sempre a trovarmi a bordo di una macchina da corsa. La moglie rimane giù e io la vedo dalla finestra. Il cappello, le braccia, le gambe, nient'altro. Ma mi piace. Penso, anche tu potresti avere un figlio, ormai. Ma perché, rifletto, mettere al mondo dei figli per vederli morire in guerra? Dunque, il padre di N mi stava davanti, era entrato con passo sicuro e mi guardava fisso negli occhi. Sono il padre di 8N. È lieto di fare la sua conoscenza, signor N. Mi inchinai, come di dovere, e offrii una sedia, che egli rifiutò. Signor professore, cominciò, sono qui per una cosa della massima importanza e le cui conseguenze potrebbero essere gravissime. Mio figlio Otto mi ha detto ieri, indignato, che lei, signor professore, si è lasciato sfuggire un'affermazione addirittura inaudita. Io? Sì, lei. E quando? Ieri, durante la lezione di geografia. I ragazzi avevano fatto un componimento sul tema delle colonie e lei ha detto a Otto: i negri sono uomini come noi. Capisce che cosa intendo dire? No, Sinceramente non capivo. Mi guardò indagatore. Come deve essere stupido, mio Dio, pensai. La mia presenza qui, riprese con voce lenta e grave, è motivata dal fatto che ho sempre avuto, fin dalla giovinezza, la passione della giustizia. Sono dunque qui per chiederle: quella fatale dichiarazione sui negri è stata proprio fatta nelle circostanze e nelle forme che ho riportate? Sì, dissi sorridendo. E la sua presenza qui sarebbe motivata? Prego, un momento, mi interruppe. Non amo lo scherzo. Mi sembra che lei non si renda ben conto di che cosa significhi una simile dichiarazione sui negri. È una forma di sabotaggio della patria. Ah, so bene che cosa dirà. Ma io conosco le vie perfide e segrete attraverso le quali il veleno di voi, umanitari, cerca di minare le innocenti anime dei ragazzi. Era troppo. Mi permetta, esclamai, anche nella Bibbia si legge che tutti gli uomini sono fratelli. Quando la Bibbia è stata scritta non c'erano ancora le colonie come le intendiamo noi, rispose imperturbabile il fornaio. La Bibbia deve essere intesa in senso figurato, altrimenti è inutile. Credi dunque, signore, che Adamo ed Eva siano realmente vissuti o che siano soltanto dei simboli? Vede? Non se la caverà tirando in ballo il Dio. Ci sono qui io a sorvegliare, stia tranquillo. Non sorveglierà un bel niente, risposi. E lo invitai a uscire. Era una messa alla porta in piena regola. Ci rivedremo a Filippi, mi gridò. E scomparve. E due giorni dopo mi trovai a Filippi. Il preside mi chiama. Ho qui una lettera dell'ispettore generale, dice. Un certo N, fornaio, si è lagnato di lei per certi discorsi. Capisco bene, so come nascono queste cose, non ha bisogno di spiegarsi. Tuttavia, caro collega, è mio dovere richiamare la sua attenzione sulla necessità che questi incidenti non si ripetano. Ha dimenticato la circolare confidenziale numero 5679U/33? Dobbiamo evitare tutto ciò che possa, in un modo o nell'altro, incrinare le future capacità militari dei giovani. In altre parole, dobbiamo prepararli moralmente alla guerra. Punto e a capo. Guardai il preside. Indovinò i miei pensieri e sorrise. Si alzò e si mise a camminare in su e in giù. È un bel vecchio, pensavo. Lei si meraviglia, mi disse tutto d'un tratto, di vedermi dar fiato alle trombe di guerra, e ha ragione di meravigliarsi. Guarda un po', lei pensa. Qualche anno fa firmava appassionati messaggi di pace e oggi prepara la gioventù al massacro. So che ci è costretto, dissi per tranquillizzarlo. Si fermò davanti a me e mi guardò. Giovanotto, riprese con voce severa, ricordi bene una cosa. Non ci sono costrizioni di sorta. Potrei oppormi allo spirito dei tempi e farmi mettere in galera da un fornaio. Potrei andarmene, ma non voglio, no! Non voglio andarmene, perché desidero raggiungere il limite d'età e avere diritto all'intera pensione. Magnifico, magnifico, pensai. Mi ritiene un cinico, vero? Proseguì e mi guardava paterno. No, noi tutti che abbiamo aspirato a un'umanità migliore abbiamo dimenticato una cosa: l'epoca. L'epoca in cui viviamo, caro collega. Quando si è visto quello che io ho visto, si comincia a poco a penetrare l'essenza delle cose. Sì, parla, parla, pensavo, è facile per te. Tu hai conosciuto i bei tempi dell'anteguerra, ma io? Ho cominciato ad amare durante l'ultimo anno di guerra e non mi pongo problemi. Viviamo in un mondo proletario, riprese scrollando tristemente la testa. Ricordi l'antica Roma, se può. Nel 287 avanti Cristo, la lotta tra patrizi e plebei non era ancora decisa, ma i plebei avevano già occupato i posti preminenti dello Stato. Permettete, signor preside, osai obiettare, che io sappia, non sono i plebei che governano oggi, ma il denaro. Mi guardò sorpreso e sorrise. Esatto. Ma devo darle un brutto voto in storia, signor professore di storia. Lei dimentica che c'erano anche dei plebei ricchi. Ricorda? Ah, ricordo. Certo, ricordo. I plebei ricchi abbandonarono il popolo e costituirono, coi patrizi già un po' decadenti, la nuova aristocrazia, i cosiddetti ottimati. Non se ne dimentichi. No. Il pane quotidiano. Quando varco la soglia della classe in cui mi sono permesso di parlare dei negri, ho subito l'impressione che qualcosa non va. Che mi abbiano sporcato di rosso la cattedra? No. E allora perché mi guardano con un'espressione così maligna? Ecco, uno alza la mano. Che c'è? Viene avanti, mi porge una lettera, ritorna al suo posto. Che cosa significa? Straccio la busta, scorro il foglio, sto per scattare, ma mi domino. Faccio finta di rileggere. È firmata da tutti 25, salvo W che è ammalato. Leggo. Non vogliamo più averla come professore, poiché dopo quel che è accaduto, noi sottoscritti non abbiamo più fiducia in lei e chiediamo un altro insegnante. Guardo i sottoscritti uno dopo l'altro. Tacciono e non mi guardano. Domino la mia irritazione e chiedo incidentalmente: chi ha scritto? Nessuna risposta. Andiamo, non siate così vili. Nessuno si muove. Sta bene, dico alzandomi. D'altronde non mi interessa sapere chi ha scritto la lettera, visto che l'avete firmata tutti. Anch'io non ho nessuna voglia di insegnare in una classe che non ha fiducia in me, ma credetemi, è con la migliore volontà del mondo. Mi interrompo poiché mi accorgo che uno scolaro sta scrivendo sotto il banco. Che cosa scrivi? Fa per nascondere il biglietto. Dammelo. Gli strappo il foglio dalle mani ed egli mi sorride maligno. È un pezzo di carta sul quale stava stenografando le mie parole. Mi spiate. I ragazzi sogghignano. Sì, sogghignate pure. Io vi disprezzo. Non perdo niente lasciandovi. Venga pure un altro a rompersi le corna con voi. Vado dal preside, gli racconto l'accaduto e lo prego di darmi un'altra classe. Sorride. Se crede che le altre siano migliori, mi riaccompagna in classe. Urla, tempesta, l'insulta. Che magnifico commediante. È una vergogna, urla, un'infamia. I birbanti non hanno nessun diritto di chiedere un altro professore, ma che cosa credono? Sono diventati pazzi e via di seguito. Poi mi lascia solo. Eccoli lì, davanti. Mi detestano. Vorrebbero rovinarmi, vedermi in miseria. Tutto perché non possono sopportare l'idea che anche un negro sia un uomo. No, voi non siete uomini. Ma state tranquilli, amici miei. Non voglio subire una punizione disciplinare per i vostri begli occhi e tantomeno perdere il pane. Ah, mi vorreste vedere in miseria? No, non vi farò questo piacere. Da oggi vi dirò che non esistono uomini all'infuori di voi. Ve lo ripeterò fino alla nausea. Del resto, non desiderate altro.